Storielle. Storiacce. Di Roberta Giordano. Credo sarà una puntata questa, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, in cui avremo quella che si potrebbe definire come una maestra di vita, una consulente di esistenza, secondo me, ma meglio ci dirà lei, ancora prima di salutarla, voi sapete il rito qui a Storielle, e fare identificare, fare raccontare il personaggio, prima di tutto in un identikit estremamente sintetico con tre aggettivi. Ma incisiva, arresa ma con consapevolezze sempre nuove, ilare. Beh, ilare sono soprattutto poi gli altri, bisogna dire, ma non lo sarebbero se non lo fosse anche lei in, diciamo, grandissima quantità. Geppi Cucciari. Roberta Giordano, sì, i nomi li sappiamo. Geppi Cucciari, che credo ci farà passare una mezz'ora straordinaria. Adesso vorrei mettere le mani avanti oppure grazie, creare la prestazione che mi stai attaccando. Però insomma la carico anche perché io devo dire che Geppi Cucciari sicuramente fa impazzire gli uomini, ma sa far impazzire anche una donna, perché per averla qui con me sono andata, ho preso una piantina di Milano, ho cercato in quale punto si fosse perduta, dopodiché eccola finalmente qui. Pensavo, stavo a cercare in via Sardegna, dove io abito per coerenza. Infatti Geppi Cucciari, grande attrice comica di TV, teatro, conosciutissima con Zelig, è una, possiamo dire, una tipica bellezza sarda, proprio perché tu vieni dalla Sardegna, no? Sì, sì, insomma, devo dire che ultimamente la Sardegna ha dato molte veline, insomma, al mercato della televisione italiana, e io non sono rientrata tra queste, non so se l'hai notato. Quindi... Perché tu sei bella anche dentro, non perché siano brutte dentro, no, le veline, ma perché... Però le ultime tre veline, a parte quest'ultima, le ultime tre erano sarde, Elisabetta Canali, Giorgia Palmas e Melissa Satta. Quindi tutte e tre more, contributo, insomma, alla bellezza, quarta velina televisiva. Mora, anche, ecco, mai compresa fino in fondo da Antonio Ricci, attendo la mia chance. Senti, ma di chance comunque tu ne hai avute e ne hai tantissime, perché dicevamo, attrice di TV e cinema, hai iniziato con il laboratorio Scaldasole, no? nel 2000, e poi nel 2001 sei approdata invece al laboratorio artistico di Zelig, nel 2003 hai fatto la prima edizione di Zelig Off e poi sei partita alla grande nella stagione 2005 e poi fino a seguire tra i protagonisti di Zelig Circus, mi ricordo bene tutto ciò. Sei molto preparata sulla mia... Però, la geografia. Però ripartiamo per la tua geografia un po' più alle origini. Stavamo dicendo quindi sarda, di Cagliari, ma più precisamente di Macomer. Esatto, Macomer. Macomer, che tra l'altro nel tuo ultimo libro Meglio un uomo oggi, pubblicato da Mondadori, diventa un po' parte di un quadrilatero molto trendy, no? Molto glamour. Sì, diciamo che questo libro si svolge, la trama si dipana tra Las Vegas, Austin, Milano e Macomer, insomma un classico. Classico, diciamo. Veramente, molto classico. Ma Macomer, tu sei venuta via di lì, sei trapiantata praticamente a Milano. Come è andato questo trapianto? Beh, c'è stata una via intermedia che era Cagliari, perché io a Cagliari ho iniziato l'università. A Macomer mi sono diplomata al liceo scientifico con una brillante votazione, essendo io sempre stata anche pure secchiona, pensa un po'. E sei laureata anche in giurisprudenza. Ma con meno spirito secchione, sono più per osmosi questa laurea, l'ho presa, per stanchezza. Alla fine, pur di non vedermi... I genitori che... devi no. Esatto, i miei genitori ci tenevano molto, io li ho fatti felici e poi ho cercato di fare felice me subito dopo a seguire. Quindi il passaggio è stato Macomer, Cagliari, Milano, sai, quindi sempre più grande. Il mio cuore ovviamente è rimasto in Sardegna, il luogo dove vorrei tornare se fosse possibile, dove tornerò appena lo sarà. Ah, quindi il tuo obiettivo è quello di tornartene in Sardegna? Il mio obiettivo è vivere in Sardegna sicuramente, vivere a Cagliari magari, però a Cagliari voglio tornare con un perché. Il perché si chiama marito, perché dubito a questo punto di poterlo trovare a Cagliari, insomma, non lo escludo, perché no, anzi magari un uomo sardo al mio fianco non sarebbe malissimo. Possiamo lanciare un appello in questo momento, se vuoi. Ma guarda, temo che chi risponda a questi appelli non sarebbe l'uomo che fa per me, quindi grazie lo stesso. Ma vogliamo allora dire, da questa tua dichiarazione, Geppi Cucciari, che tu praticamente sei venuta via da Macomer e poi Cagliari verso Milano non tanto per una questione professionale, ma per cercare marito, ecco. No, assolutamente no. Cioè, ma che sei? Cosa, sono così pazza? No, anzi, addirittura ne ho smarrito per strada a causa di queste mie scelte. No, no, io sono venuta a Milano perché volevo fare questo mestiere. Ho pensato che a livello contingente potessi unire l'utile al dilettevole, certo, e trovare anche un degno compagno. Esatto, un uomo consapevole di sé, di me. Magari qualcuno per un momento si è anche pensato che lo fosse, ma poi era un calesse. Ma se tu dovessi dire l'identikit ideale, no? Perché magari uno dice, non è che Geppi Cucciari pretende troppo, ha delle idee strane, e allora è per quello che non viene fuori questo uomo. Ma guarda, io di questo nel libro ne parlo. Secondo me a 15 anni ti innamori di un uomo per come appare. Allora ti innamoravi di Pierre Cossot, capito? Di Tempo delle Mele. Eh sì, che ne so, di Simon Le Bon, di Tony Hadley, che a rivederlo adesso, insomma, anche quell'effetto ti sei pentita di... Vabbè, quelli erano sempre giovanili, però, diciamo, insomma, un po' bolso, ma sempre bello. Ma quando poi dopo inizi a crescere, non è l'uomo in sé che provoca la tua attenzione, ma il rapporto che tu riesci a instaurare. Ci sono uomini che hanno avuto il peggio e il meglio di me, cosa che credo che sia in ogni relazione tra un uomo e una donna. C'è chi tira fuori il meglio e il peggio. Quindi si cerca un uomo che tiri fuori il meglio, anche perché nessuno ti tira fuori quello che non hai, nessuno ti rende isterica e psicotica, lo sei, evidentemente lo sei. Forse ci sono uomini che scomodano di più quel tuo lato, a discapito magari invece della tua dolcezza, della tua disponibilità, sottolineiamo disponibilità, che è una cosa che cresce inversamente proporzionale, in maniera inversamente proporzionale agli anni che si trascorrono con un uomo. Quindi invece questa cosa rimane attiva se sei sedata sotto altri punti di vista, in qualche modo, è a vicenda pure. Allora, però a questo punto Geppi Cucciari ci incuriosisce, perché mi viene voglia di chiederti, in breve ovviamente, che cos'è il meglio di te e che cos'è il peggio di te. Ma io, se fossi in un altro, con me ci uscirei, ecco, cioè io insisterei, ecco, con una come me... Io sono piena di insicurezze, come moltissime donne. Di insicurezze. Di insicurezze, sì. Ma ho anche diverse consapevolezze. E penso che di aver lavorato su di me affinché la personcina che sono cerchi in qualche modo di rifuggire a una delle cose che io temo di più in assoluto, che è la noia e la banalità. Quindi spero di aver almeno centrato quell'obiettivo, anche perché chi cresce normale, come sono cresciuta io, e per normale, ecco, da adolescente vuol dire brutta. Per normale adolescente vuol dire brutta. Non è vero, non è vero, Geppi. Poi io ti farei vedere delle foto e torneresti sui tuoi passi, mia cara. Ho delle foto tra i 13 e i 16 imbarazzanti, davvero. Ma quelle ce le abbiamo tutte, dai, le 13. Io i primi soldi che ho guadagnato col cabaret mi sono regalata una fronte. Perché non che non l'avessi, ce l'aveva, ma un po' stile Grazia Deledda, che peraltro non che neanche... era, cioè, una grande, grandissima donna, intellettuale, assolutamente, che non quindi... potrei mai pareggiare né avvicinare, sia chiaro. Però se la fronte era simile, abbiamo, diciamo, un'ottima promessa. Sì, ma infatti erano anche, sono passati alcuni anni dalla sua scomparsa, anche dalla sua nascita. Poi mia madre era cattiva sotto il profilo del look, non mi ricordo, delle foto col kilt, con la spilla d'oro, no, guarda. Beh, si usavano in quegli anni, non avevi la frangetta però anni 70. Non avevo la frangetta perché avevo la fontana, la riga in mezzo, avevo pure, a un certo punto uno si è stufata di pettinarmi, mi ha fatto questa mascagna con questi capelli in legno, ma perché ne ho tanti, quindi corti, sembravano quelli di Big G disegnati, ci mancava solo il tasto dietro per cambiare faccia. Brutta, veramente brutta. Da bambina, proprio da bambina a bambina, ero proprio grassa. Ma grassa! Io non so come dirti grassa. Toma, di quelle che da bambina sei molto carina. Ma guarda che bella bambina grassa, morbida. Ma guarda che bella adolescente grassa e morbida. L'hai mai sentita questa frase? Sì, no, ma no, un'adolescente sfina, grassa e morbida. Esatto, crescendo. Infatti un po' mi sono sfinata. Però chi si forma da grassa rimane grassa dentro per sempre, perché grassa è la tua mente, nel bene o nel male. Quindi sentirai sempre quei chili addosso in più. Poi guarda, io ci vivo con serenità, anzi chi mi vede, anche tu mi hai detto, ma sei in forma. Certo, naturalmente, ma perché la TV non ti rende giustizia. La TV non rende giustizia, quelle che voi percepite come magre sono magrissime, perché la TV proprio ti regala una taglia e mezzo in più. Tu sembreresti normale, non sembreresti magra come sei, sei magra, questa donna è magra purtroppo, ma io ho accettato il suo invito lo stesso. Storielle. Storiacce. Roberta Roberta Giordano sempre con voi, cari ascoltatrici, cari ascoltatori. Stiamo parlando della turbolenta, controversa vita di Geppi Cucciari, che qui a Storielle, Geppi, quindi siamo partite dalle tue origini, dalla tua adolescenza. E quindi io ho avuto notizie probabilmente false e tendenziose su un tuo glorioso passato di fotomodella. Quindi ma non sì, no, guarda, questo. Io ho provato in tutti i modi, ma non c'è stato. Anzi, guarda, rimane un mio sogno, prima o poi sfilerò in qualche passerella milanese. Io direi di sì, poi ci sono tante case di moda che fanno anche... Se stai per dire tagli rinforzati, io abbandono la radio, lo stabile è la città e sei una caffona. No, dove anche la cucinotta. La cucinotta è la metà di me, capisci? Ma cioè, non è vero. Ma sì, è più piccola, cioè su tutte quelle che tu percepisci come morbide sono piccole. Piccole. Sono molto più piccoli di cucina, ma è bella, una bella donna, formosa, sì, formosa, però è magra. Un seno che sarà, scusa, una sì, ma una quinta sul corpo, su una 38, e cosa vuol dire? Ti sembra spiacevole? Allora è un po' sbilanciato, no? Insomma, dipende da chi c'è sulla bilancia. Comunque, ritornando un po' alle sue invece molteplici esperienze, grandi soddisfazioni, abbiamo detto con Zelico ormai il successo, poi su Sky hai fatto anche questa trasmissione Geppi Hour, una trasmissione tutta tua. Sì, il consueto late night show, così con altri comici, con dei servizi, dei contributi. Insomma, è stata un'esperienza molto bella che spero prima o poi di ripetere. Sono più tipa da radio io, dove do il meglio. E siamo qua, infatti, siamo qua con Geppi Cucciari. Poi però dai il meglio anche sui giornali con Donna Moderna, no? Questa rubrica. Ah, quella è una cosa alla quale tengo molto, perché comunque è una rubrica che tengo più o meno da ormai 3 anni e mezzo quasi su Donna Moderna. E mi piace molto, perché comunque scrivo di ciò che voglio senza essere necessariamente seriamente comica, ma basta una vena sarcastica o umoristica, perché comunque nella scrittura ti vuoi concedere anche uno stile un po' più riflessivo che non nel cabaret puro. Zelig rimane sicuramente una delle cose a cui devo tutto quello che è arrivato dopo, però... Poi anche il cinema, ovviamente, l'ultimo è il film con Verdone, no? Grande Grosso Verdone, che è uscito l'unico, nel marzo anche, 2008. Anche l'unico, volendo. Anche ma, il primo, se vogliamo. E qua, diciamo, diciamo è il primo di una serie, probabilmente. E chi no? lo sa? Immaginiamo. Poi c'è quella sitcom strepitosa che è Belli Dentro. Belli Dentro, dove io sei incarcerata dietro le sbarre. Incarcerata sarda, pensa che prova di interpretazione estrema e audace. Però ti diverti, da... mi diverto molto, quello è un lavoro corale, tutte le cose corali mi hanno sempre divertita. Ho cominciato in teatro tanti anni fa con uno spettacolo con la regia di Pala Galassi che si intitolava Maionese, eravamo in 6 attori sempre in scena, quello mi piace, cioè il teatro mi è sempre piaciuto molto. E sempre della Galassi anche Si vive una volta sola? Si vive una volta sì, una volta appunto sola, sì, la regista è sempre lei. E lo spettacolo è sempre in giro? Lo spettacolo ancora farà qualche replica. Io in teoria avrei dovuto concludere l'anno scorso, poi abbiamo avuto molte richieste, allora ho fatto ancora qualche data. Adesso l'8 marzo a Rimini, il 13 a Como, Montecatini, Piombino. Però ci dicevi che quindi la forma scritta, l'umorismo, la penna così satirica ti si addice molto, ed è per questo che sei al secondo libro. Però il primo, quest'ultimo è Meglio un uomo oggi, il primo il 2006. Meglio donna, allora, quello si intitolava Meglio donna che male accompagnata, questo Meglio un uomo oggi, come se tu ti fossi un po' ricreduta forse o no? No, perché prima giocava sul fatto della sostituzione tra donna e sola e partiva dall'assunto che il contrario di essere male accompagnata non è essere sola, ma essere donna, femmina e integra, quindi indipendente, l'indipendenza contro l'essere con qualcuno a tutti i costi. Meglio un uomo oggi è un dogma, meglio uno, non c'è meglio un uomo oggi che è un'altra cosa, non c'è un'altra cosa che è meglio. Bisogna avere oggi. Quest'uomo oggi. Soprattutto perché comunque se il primo libro parlava della crisi dei 30 anni, questo parla della crisi peggiore che ci può essere dopo quella dei 30 anni, che è quella dei 35. Quindi pensi, Geppi Cucciari, di vivere altre numerose crisi dopo... Sì, il prossimo libro sarà sulla crisi dei 40. Quindi aspettiamo ancora qualche anno. Devo aspettare perché io non sono così creativa da scrivere di cose che non ho vissuto, quindi... C'è del vero, c'è molto del vero. Qualcuno nella tua ricerca di verità negli anni da quando eri piccola fino adesso ha cercato di ostacolarti? Non so, i genitori a un certo punto hanno detto: ma no, dove vai, che fai dopo che ti sei laureata in giurisprudenza, dove vai a fare cabaret? No. Sì, ci hanno provato dall'inizio, perché comunque loro non volevano che facessi questo mestiere. Però io, siccome li ho accontentati, mi sono laureata e io poi ho provato anche un po' a lavorare, poi ho detto vabbè, mi prendo un po' di tempo e faccio soltanto questo, vediamo come vanno le cose. Sono andate fortunatamente bene, perché comunque anche una serie di eventi anche esterni a te ti può investire positivamente. Io ho lasciato il mio lavoro a luglio, a settembre ho trovato un'agenzia e da là è cominciato non avevo ancora fatto TV, quindi comunque era stato un investimento da parte loro e ringrazio ancora chi mi ha voluto allora e dall'anno è stato un percorso un pochettino più solido e strutturato. Quindi i tuoi si sono tranquillizzati dopo, hanno detto questa era la sua strada. Sì, lentamente sì, lentamente sì, e i miei genitori comunque rimangono due miei grandi sostenitori, con grande affetto e anche con quel giusto distacco. Ma tu, Giappi Cuceri, hai deciso di fare la comica per vocazione, per necessità di sopravvivenza, a volte magari anche psicologica, o perché non hai trovato posto alle Poste? No, beh, tutto anche io ce l'avevo un lavoro, io l'ho lasciato perché volevo fare quest'altro. Se mai dovesse essere che questo lavoro sfuma tra le mie mani, ne troverò un altro. Del resto, alla fine la laurea che i miei genitori mi hanno obbligato a prendere mi dà anche quella tranquillità di dire io posso cambiare strada. E io stavo leggendo nella serie di ringraziamenti all'inizio, no? Nella dedica di questo libro, Meglio un uomo oggi, la dedica finisce: e a mio marito ovunque sia. Ho avuto un soprassalto, ma allora ho detto Geppi si è sposata, invece il marito ovunque sia, perché tu sei certa che ci sia. Pensavo che fosse andato a comprare le sigarette e non l'avessi più visto. Infatti, no, invece... no, ancora non è così, perché io so che c'è. E prima o poi non lo troverò, lo stanerò. Stanerò. Può essere un luogo dove stanarlo la discoteca? Ma assolutamente no, anche perché la discoteca a 35 anni, ma chi ci trova? No, dai, chi va, un 35enne che va in discoteca, poi ci sono dei locali, anche a Milano ci sono dei locali dove si balla, ma non sono discoteche in maniera netta. Classica. E là, insomma, locali dove si sente dove musica, si beve, si chiacchiera. Se vuoi anche accennare due passi, un paso doble, lo puoi pure fare, o anche giare un po', muovere le spallucce. Però... diciamo che ormai dai, ci si fidanza con gli amici di amici di amici e ci si incontra tramite persone comuni, più difficili, alle feste un po' più ristrette. Poi il destino è sempre in agguato, qualche volta nel bene, qualche volta nel male. Sono una donna fortunata, ho accanto una famiglia meravigliosa, accanto a amiche presenti. Che vi dite tra amiche? Se uno volesse scavare nel torbido di Geppi Cuceri nella sua vita, con le amiche, quando ti ritrovi, che dici? Qualsiasi cosa ti venga in mente viene snocciolata fino ai minimi dettagli, anche i più sordidi. Non esistono segreti tra le... Poi amiche, non conoscenti o persone che frequenti, amiche. Ma sono quelle dell'infanzia o amiche che comunque ti... Queste di cui parlo nel libro sono amiche vere. Cioè Lucia è una mia compagna di banco del liceo, quindi ci conosciamo da 25 anni. Sì, eravamo anche compagni di basket di quando eravamo alle medie, quindi ci conosciamo da sempre. Stefania è la mia amica di Cagliari, la mia prima amica conosciuta a Cagliari, con la prima squadra dove ho giocato a basket il mio primo anno di università a Cagliari. Quindi ci conosciamo. Con buoni risultati? Basket? Sì, io ho giocato in Serie B, ho giocato anche in A2. Ah, gioco anche nel nazionale basket artistico, il nostro capitano Fabrizio Frizzi, che gioca esattamente come tutti i posti. Puoi immaginare che giochi Fabrizio Frizzi. Se tu dovessi guardarti indietro e dire grazie a chi in qualche modo secondo te ha un po' fatto da detonatore di questa tua vena comica? Beh, io vivo in una famiglia dove la simpatia è abbastanza presente, ecco. Mio padre ha un senso dell'umorismo abbastanza british, ma presente. Mia madre è più... terrestre invece, come me. Spante, quindi. Però faccio delle grandi risate con entrambi. Anche i miei fratelli sono simpatici. Tu hai fratelli maschi o anche... Ho due fratelli maschi maggiori. Però quando la simpatia vuole che diventi un mestiere, non basta essere simpatici. Ci saranno sicuramente magari geometri più simpatici di me o idraulici più simpatici di me, ma che non hanno nessuna voglia di andare su un palco a dimostrarlo. Anche perché poi dopo, quando vuoi che la tua simpatia diventi un mestiere, ci vuole anche della... Faccia tosta? No, ma anche della gestione di questa, certo, peculiarità, dell'impegno, un investimento di tempo, di lavoro, di energie, o magari un concerto di lavoro con altra gente. Io lavorato fin dall'inizio con uno che è poi diventato uno dei miei punti di riferimento qua a Milano, si chiama Lucio Wilson, col quale ho scritto anche lo spettacolo, no? Anche lo spettacolo, col quale è autore di Belli Dentro, era capo progetto a JP Hour, e tutte le puntate di Zelig io le scrivo con lui, quindi è una persona molto presente, anche lui sardo, e abbiamo un grande percorso comune artisticamente parlando, ed è la persona con la quale ho sempre lavorato con più affetto. Se tu dovessi dire una qualità che insomma, è peculiare proprio nel senso positivo dei sardi. Una Una generosità che viene declinata in diversi settori, generosità culinaria, generosità sentimentale, ma che non appartiene solo ai sardi, poi un grande senso di accoglienza. Secondo me tutti gli isolani hanno le caratteristiche rinforzate nel bene e nel male, l'isolamento li ha rinforzati, quindi i sardi non fanno eccezione a questo. Trovo i sardi particolarmente ospitali, generosi e disposti a darti tanto, quasi a prescindere, come pochi. Una cosa che i sardi secondo me hanno più che mediamente i settentrionali è il senso immediato di riconoscenza. Cioè, si dice che i sardi devono bussare con la testa quando arrivano in casa da altri, ma non perché danno le testate ai muri, ma perché hanno le mani impegnate con qualcosa che ti stanno portando. È difficilissimo che tu fai un favore a un sardo e lui non si sdebiti. Tu gli fai una telefonata a un amico tuo che magari gli può far avere una cosa che gli serve, è sicuro che settimana al massimo tu avrai un casizzolo in casa, cioè una forma di formaggio, cioè comunque qualcosa subito, però ecco, proprio cresci con questo senso immediato di riconoscenza, di giustezza anche dello scambio, che magari se tu riesci a tenere anche in altre cose un po' più profonde che una frittella, può essere una chiave per dare di più a chi ti sta accanto. Ti chiedo in conclusione, questa che vedi qui è la lampada di Aladino. Sì. Perché tu possa esprimere un desiderio, cosa chiederesti? Vorrei che là ci fosse mia figlia. Ah sì, tua figlia? Sì, sì. Vorrei una figlia, quindi quella lampada ci sarà mia figlia. La strofiniamo bene bene allora, strofinava. Speriamo che sia femmina allora. No, sì, che sarà una femmina, si chiamerà Caterina come mia madre. Grazie Geppi Cucciari. Grazie a te. Ciao Geppi.